Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo, la musica, la cultura, considerando tutti gli animali, non solo la specie umana. Questa settimana parleremo di caimani e tentativi di tutela degli animali selvatici, di ghiacciai, di cantanti che perdono le staffe e infine di gazze. The fortunes of fables are able. Now witness the quickness with which we are to sing the blues. You got to live the blues, yeah, Cominciamo con una notizia che a noi sembra triste. Si è conclusa, dopo una decina di giorni in Sardegna, la fuga del caimano sparito dal Circo Martin, dove è detenuto per essere esibito durante gli spettacoli. Il proprietario del circo aveva denunciato il furto dell'animale, ma le circostanze della sua sparizione non sono state in realtà chiarite, e così c'è chi pensa che il caimano sia in realtà fuggito, chi ha ipotizzato la liberazione da parte di qualche attivista animalista e chi appunto il furto da parte di un malintenzionato. Il dubbio rimane. A noi naturalmente piace pensare che il caimano sia evaso, come spesso succede con gli animali reclusi, che si tratti di circhi, di allevamenti, di gabbie. Il caimano è stato ritrovato in buona salute, né denutrito né disidratato, grazie anche alle piogge che per una volta hanno aiutato la sua vita in libertà in un'isola spesso tormentata dalla siccità. Ora che il caimano è tornato al circo per riprendere la sua triste vita quotidiana, possiamo almeno sperare che in quei 10 giorni di libertà si sia sentito un animale selvatico, l'unica condizione esistenziale adatta a un individuo della sua specie. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. Abbiamo già avuto occasione di parlare nelle settimane scorse del Jova Beach Tour, la serie di concerti organizzata dal cantante Jovanotti in alcune località di mare lungo la penisola, con un'incursione anche in montagna sulle Dolomiti. Il tour, nelle intenzioni di Jovanotti, aveva una precisa connotazione ambientalista, sia per il messaggio diffuso dal palco, in primis contro l'abuso della plastica e per il suo corretto smaltimento, sia per i luoghi prescelti, teoricamente a contatto con la natura. Su tutto però incombevano 2 fattori, complicando molto le cose. Il primo, la mole del palco e degli annessi. Si parla di ben 52 tir impegnati negli spostamenti. Secondo, l'impatto causato dalla presenza simultanea di decine di migliaia di persone e relative automobili per gli spostamenti in luoghi delicati come le spiagge. In simili condizioni, parlare di ecoconcerti rischia di essere un paradosso e qualcuno lo ha fatto notare. Il tour ha avuto fra i suoi partner il WWF, Ma questa copertura e le cautele usate nell'allestimento dei palchi non hanno certo messo al riparo Jovanotti dalle critiche e dalle denunce di chi sul territorio si occupa ogni giorno di proteggere flora e fauna. Così più di una volta Jovanotti è stato costretto ad annullare o modificare i piani dei suoi concerti, in particolare perché gli allestimenti previsti mettevano a rischio gli habitat del Fratino, un piccolo trampoliere a rischio di estinzione che vive in riva al mare, e perché le spiagge scelte per i concerti erano sottoposte al fenomeno delle erosioni. In qualche caso è stata anche contestata la presenza di luoghi di riproduzione della tartaruga Caretta Caretta. Jovanotti ha vissuto con un certo fastidio le obiezioni e le critiche che sono state mosse al suo tour, finché non è sbottato con un violento intervento sui social network, a tour ormai avviato verso la conclusione. Il cantante ha evidentemente perso i freni inibitori, visto che si è lasciato andare ad apprezzamenti temerari quanto generici. Ha sostenuto, fra l'altro, che il mondo dell'ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi e ha additato, aperte virgolette, la spocchia pelosa di molti farabutti che dietro alla maschera dell'ambientalismo nascondono ansia di protagonismo, quando non disonesta ricerca di incarichi ben pagati, chiuse virgolette. Legambiente, Italia Nostra, EMPA e altre organizzazioni hanno replicato al cantante mostrando l'autocontrollo mancato a Jovanotti e ricordandogli che i rilievi fatti sono stati documentati e spesso accolti dalle autorità. Ma evidentemente non c'è un terreno culturale comune fra le associazioni che ragionano a contatto col terreno e il cantante che si muove esclusivamente sul piano della comunicazione. Forse un giorno Jovanotti rifletterà più a fondo sulla cultura ecologista e capirà che i concerti di massa in riva al mare o in alta montagna, con decine di tir che corrono per le autostrade per migliaia di chilometri, non hanno granché di ecologista. Potrebbe forse prendere spunto Jovanotti dall'ironia che si cela dietro il suo ultimo concerto, spostato da Albenga all'aeroporto di Linate a Milano per problemi di erosione del litorale in Liguria. Un aeroporto è un luogo adatto a concerti per migliaia di persone. Lì la natura è già stata eliminata, niente alberi, molto asfalto e grande rombo di motori. Ed è un luogo adatto anche perché l'aeroporto è il simbolo di quella civiltà dell'iperconsumo che deve essere superata se davvero vogliamo salvare il pianeta dalla catastrofe climatica in corso. Mentre Jovanotti inveiva contro gli ambientalisti e mentre lo costringevano a spostarsi dal Benga a Linate, un personaggio simbolo dell'ambientalismo contemporaneo, Greta Thunberg, approdava a New York in barca a vela, disertando aeroporti e aeroplani. Per Jovanotti, ecco un'occasione per meditare e ripensare tutto. Always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. A proposito della catastrofe climatica in corso, è da segnalare l'allarme lanciato da Sergei Zimov, uno dei massimi esperti russi di permafrost e condirettore col figlio Nikita di una stazione di ricerca in Yakutia, nell'Oriente russo. La situazione è critica, ha detto Zimov in un'intervista con l'agenzia ANSA. Abbiamo passato la soglia di stabilità. Negli ultimi 2 anni il permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione. Se il trend continua di questo passo, nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sciogliersi del tutto. 10 anni, aggiungiamo noi, è un arco di tempo davvero breve. E quanto sta accadendo in Yakutia sta fra l'altro vanificando il progetto dello stesso Zimov di creare il cosiddetto Parco del Pleistocene, il tentativo cioè di ricreare, attraverso l'introduzione di grandi erbivori, l'ecosistema che fu dei mammut. Il parco, nelle intenzioni, dovrebbe mitigare gli effetti della crisi climatica. Ma l'accelerazione nello scioglimento del permafrost notata nell'ultimo biennio rischia di portare al fallimento questo curioso esperimento. Il documentario Antropocene di Jennifer Bykwell, Nicolas Depensier ed Edward Burtinsky inizia e finisce con immagini drammatiche dei grandi roghi di zanne di elefante, migliaia di zanne bruciate in un parco nazionale del Kenya come parte della lotta al traffico di avorio, uno dei business più crudeli del mondo contemporaneo. Un affare da milioni di dollari che sta portando all'estinzione degli elefanti, animali che fanno parte del nostro immaginario collettivo, ma che potrebbero sparire dalla faccia della Terra nell'arco di un paio di generazioni umane. Per tentare di fermare questa deriva dell'economia contemporanea, esiste da tempo una convenzione che regolamenta il commercio internazionale delle specie animali e vegetali a rischio. Si chiama CITES e riunisce quasi tutti gli stati esistenti sul pianeta. Nei giorni scorsi a Ginevra si è tenuta la 18ª conferenza CITES, e ne sono uscite alcune indicazioni. Limiti più severi al commercio di elefanti africani catturati in natura e destinati a zoo e circhi, conferma del divieto di commercio di avorio, rafforzamento della protezione delle giraffe e di varie specie, quali squali, tartarughe, coralli, legni tropicali. Da queste semplici indicazioni di massima uscite dalla conferenza CITES si evince che sul mercato vanno forte gli elefanti vivi, l'avorio, le giraffe morte, parti di squalo di tartarughe, corallo e legni rari. Insomma, siamo di fronte a un sistema economico e sociale distruttivo, oltre che immorale. Sappiamo tutti che è giunta l'ora di cambiare radicalmente registro, ma stentiamo tutti ad agire. Forse non sappiamo come farlo, da dove cominciare. Un punto di partenza può essere proprio il film Antropocene, collegato a una bella mostra di fotografie e video, allestita al Museo MAST di Bologna, un museo peraltro bellissimo di per sé. Antropocene documenta il drammatico impatto dell'economia estrattiva contemporanea in varie parti del mondo. Una mostra importante e molto istruttiva che merita una visita. We'll be right back. L'incontro con gli animali è sempre un'esperienza emozionante e istruttiva. Nel corso delle nostre 501 puntate abbiamo proposto numerose storie di animali e della interazione con gli umani. Siamo andati a ripescare in archivio il caso di Ginetta, una piccola, deliziosa gazza. Il 28 maggio scorso ho salvato una piccola gazza che saltellava per strada incapace di volare via. Doveva essere caduta da un nido, per ragioni ignote. Le gazze nidificano sui pini, ma nelle vicinanze non ce n'erano e quindi non potevo rimetterla nel nido, anche se si dovrebbe fare così in questi casi. In modalità riduzione del danno, quindi ho deciso di portarla a casa, confidando nel fatto che il mio compagno avrebbe condiviso la scelta perché al posto mio avrebbe fatto la stessa cosa. Inizialmente per noi si chiamava semplicemente la Gazzetta, poi dopo abbiamo cominciato a chiamarla Ginetta, forse perché fa rima. Il veterinario ha detto che Ginetta ha meno di un mese, ha anche detto che è proibito tenere gli animali selvatici e che quindi non dovremmo tenerla, ma portarla a un centro specializzato, perché lo dice la legge dello Stato, la stessa legge che però consente la caccia e quindi consente di sparare e uccidere questi animali. Non mi sembra tanto coerente questa legge. Facebook, 30 maggio. Ginetta pesa solo 130 grammi. Le gazze mangiano vermi vivi, grilli vivi, carne macinata, uovo sodo. Per noi che siamo vegani, nutrire un animale carnivoro è una vera sofferenza e anche un po' un dilemma. Ormai Ginetta è con noi, è parte della famiglia, dunque desideriamo che ce la faccia. Alcuni ci rimproverano e ci dicono: quello che fate non è naturale, doveva morire. Ma cosa c'è di naturale in questo mondo? Magari sua madre è morta perché un cacciatore le ha sparato o perché un'automobile l'ha investita. Lo sanno queste persone che le gazze sono considerate nocive e che si può sparar loro a volontà anche se non c'è nemmeno la scusa di trasformarle in cibo? Facebook, 4 giugno. Oggi non avevo alternative e ho dovuto portare Ginetta in ufficio. Per fortuna sono sola in una stanza, quindi non ho dato noia a nessuno. Lei sta sullo schienale della mia poltrona. Guarda quello che faccio e magari mi denuncerà perché sto usando Facebook durante l'orario di lavoro. Dicono che le gazze riescano anche a parlare. In questo caso spero proprio di no. Facebook, 12 giugno. La convivenza con Ginetta, la gazzetta, in ufficio è ormai sperimentata. Con grande sorpresa e meraviglia ho notato che Ginetta imita tutto quello che faccio, quindi se premo i tasti anche lei ci prova, con il suo becco gigantesco, e se scrollo il mouse ci prova anche lei, sempre col becco. È un animale incredibilmente attento e intelligente, però non voglio imprintarla troppo, quindi devo smetterla di portarla sempre con me in ufficio. Gli esercizi di volo vanno sempre meglio, in quello è bravissimo il mio compagno. Sta imparando a volare, è sempre più vivace e chiacchierona. Ho la sensazione che stia arrivando il momento di restituirle la libertà. Però con quale modalità? È un bel dilemma, perché io vorrei liberarla qui dove viviamo per tenerla d'occhio. Però mi hanno consigliato di non farlo. Lei ha bisogno dei suoi simili per rimparare da loro chi è, cosa che adesso forse ha un po' dimenticato. Facebook, 10 luglio. Oggi ho accompagnato Ginetta al centro della Lipu. È stato il mio ultimo viaggio in macchina assieme a lei. Ha gorgheggiato arrabbiatissima per tutto il viaggio, con quella voce potentissima stordendomi. Arrivederci, bella Ginetta. Ti ho restituita alla vita che ti spetta dopo questo indimenticabile mese e mezzo assieme. Non volermene, Ginetta. Lì per lì tu non avrai capito e avrai provato terrore. Ma credimi, mi è costato ripartire senza di te. però al centro Lipu dove ti ho lasciata ti reintrodurranno gradualmente in natura dopo un periodo di recupero assieme alle tue simili. Con noi sarebbe stato fantastico, però non avresti imparato a cavartela. E invece è fondamentale che tu impari l'autosufficienza. È quello che rende voi selvatici così speciali e preziosi. Mi sento felice per averti salvata e aiutata, tristissima per essermi separata da te, pronta a fare la stessa cosa mille volte ancora, con tutti quelli che ne avranno bisogno. La vita con una gazza ladra, che peraltro è un animale intelligentissimo, tra i pochi che riescono a imitare anche la parola umana e che si sanno riconoscere negli specchi, è un'esperienza straordinaria, quasi surreale. Un legame folle tra dei giganti dalla pelle rosa, vestiti di stracci e dipendenti da mille oggetti, e lei, così minuscola ed elegante, autosufficiente, con il suo mantellino di penne e piume, già dopo il primo mese di vita. Ginetta è stata liberata il 6 agosto 2015 assieme alle sue compagne dopo un periodo di adattamento e di conoscenza reciproca in gabbia. Adesso vola libera attorno al centro dove ogni tanto continuano ad avvistarla. E questa finalmente è una storia di interazione tra umani e non umani che ha il lieto fine. Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew wise, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Gabriele Palloni, chef toscano, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton, ci regala ogni settimana una ricetta collegata ai temi che tocchiamo durante la puntata. Sentiamo che cosa ha pensato oggi per noi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E rimanendo sul tema selvatico, oggi vi propongo una ricetta che vede protagonista un legume poco conosciuto, del quale vi avevo già parlato in precedenza. La rovella, legume dal gusto e dall'aspetto simile ad un pisello selvatico, appunto, utilizzato più frequentemente in Umbria e nelle Marche. In questa ricetta ve lo propongo in versione polpetta assieme a funghi e affogata in una salsa profumata. Gli ingredienti per 4 persone per le polpette di rovea ai funghi sono 200 g di rovea essiccata, 300 g di funghi non troppo saporiti però, 2 spicchi di aglio, del prezzemolo tritato, 350 g di passata di pomodoro, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, nipitella, sale e pepe. Lasciate la rovea in ammollo almeno per 12 ore. Pulite i funghi, tagliateli a lamelle e fateli saltare in padella a fiamma viva in olio extravergine di oliva con aglio e prezzemolo, aggiustando di sale e pepe. Scolate la rovea e tritatela da cruda assieme ai funghi con un mixer. Dovrete ottenere un impasto ben amalgamato, anche se non troppo liscio. Lasciate riposare per una mezz'ora, quindi, con le mani inumidite, formate una ventina di polpettine che passerete in padella a fuoco molto lento, cuocendo per 15 minuti per ogni lato. Nel frattempo, tritate lo spicchio di aglio assieme alla nipitella e fate soffriggere in olio extravergine. Aggiungete il passato di pomodoro e un po' di acqua o brodo vegetale e fate ritirare a fuoco lento. Una volta cotte le polpette, immergetele nella salsa e lasciate ritirare ancora 5 minuti. Servite con del prezzemolo tritato o delle foglioline di nipitella. Recuerdos de una noche venturosa que vuelve en mi alma a florecer. Recuerdos que se fueron con el tiempo. Presiento que reviven otra vez. Igual que aquella noche tan lejana es esa de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame. Dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero, te queré. Y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti. Mi amante, te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir. Comprendes mi amargura en el adiós. ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo? Per questa puntata è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Camilla Lattanzi, Gabriele Pallori, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla e Lorenzo Guadagnucci. La parte musicale di questa settimana è stata curata da Gianluca Masala, che ringraziamo. Con Restiamo Animali l'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.